La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti alla versione di Oscar da Oscar Giannino, 16:35 primi 8 secondi, grazie che ci sente in podcast. Il tema di oggi è un tema che insiste sullo sfondo che abbiamo alle nostre spalle della condizione del paese. Immagino che abbiate ascoltato magari qualche edizione del giornale radio e avete, immagino, sentito cosa la Corte dei Conti stamattina ha detto in audizione insieme alla Banca d'Italia della legge di stabilità del governo. L'ha smontata pezzo a pezzo, direi, e viene da chiedere come mai organi dello Stato, dopo tanti anni, potrebbero anche confrontarsi un po' prima invece che ridursi all'ultimo secondo e capire poi che le norme che scrivono non tempo sono, arrivano tardi e male, visto che la stessa Corte dei Conti, a mia opinione, ha pienamente ragione a sottolineare tutti i limiti di alcune delle questioni fondamentali di questa legge di stabilità deludente. Ma al di là di questo, noi parliamo invece di imprese che sono scese in piazza in questi giorni. Lo hanno fatto in Veneto, lo hanno fatto a Venezia. Vi do solo queste due cifre prima di presentare l'ospite su cui riflettere. La prima è una realtà di fatto: il Canton Ticino in Svizzera offre alle imprese che lì aprono nuove attività da fuori, provenendo da altri paesi, con 10 occupati, offre per 5 anni l'esenzione dell'IRES, per 5 anni. Invece la realtà del Veneto è che a inizio crisi nel 2008 le imprese attive in Veneto erano 140.555 e le imprese attive alla fine dello scorso mese di giugno, rispetto alle 140.500 del 2008, erano scese a 126.527, ne mancano 14.000. E 14.000, come potete immaginare, su 140.000 sono il 10%. Questo ci dà l'idea della moria di impresa in questi anni di crisi. Ecco, di fronte a questo, nel fine settimana, venerdì e sabato, centinaia di piccole imprese, di piccoli imprenditori veneti sono scesi in piazza a Venezia. Hanno protestato per il pomeriggio di venerdì, hanno animato molti dibattiti, molti confronti, hanno consegnato le chiavi di centinaia e centinaia delle loro imprese, sono andati al prefetto, hanno presentato una serie di proposte, lo hanno fatto al di fuori dell'ufficialità delle diverse sigle associative, lo hanno fatto partendo da un appello: ci mandate in strada, questo era il titolo, rivolto naturalmente alle politiche di governo fiscali e alla restrizione del credito, ma lo hanno fatto su base individuale, che fa riflettere a volte anche sui limiti delle esperienze associative. E abbiamo qui con noi uno degli animatori di questa protesta, che è il vicepresidente di Apindustria Vicenza. Apindustria in Vicenza è una delle realtà che hanno aderito più formalmente a questa protesta, di cui uno dei protagonisti è stato anche il presidente nazionale dei giovani di Confartigianato, Marco Nardin. Ma è con noi qua William Beozzo, che è titolare di un'impresa che si chiama Farm, sta a Bassano del Grappa, la sua impresa, settore metalmeccanico, perché si occupa di scaffalature e armadi metallici. Grazie di essere qui con noi, Beozzo. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, ci dica, questa protesta nasce dal basso, trasversalmente, partiamo dalle vostre proposte, quelle che avete consegnate al prefetto per uscire dalla nomea che le imprese poi piangono e si rivolgono allo Stato, vogliono solo cose di Stato. Voi cosa avete chiesto? Noi abbiamo portato al prefetto di Venezia una proposta che si chiama 15-40 più 15 più 15. Quindi la retribuzione dell'importo delle tasse che tra fatturato, tra costo del lavoro, imposte dirette e indirette, gravano sulle imprese per circa il 70%, chiediamo quindi che queste venga diviso in 40 più 15 più 15. Quindi il 40 andrà a coprire la tassazione globale tra costo del lavoro, imposte dirette e indirette, il 15 dovrà versato e retribuito ai nostri dipendenti come ferma di aumenti sostanziali per far riprendere l'economia, e l'altro 15% dovrà restare alle imprese, che dovranno utilizzarlo per investire e ristrutturarsi per essere nuovamente competitivi sul mercato. Noi abbiamo fatto questo perché pensiamo che la ripresa dei consumi interni non avvenga con 12 euro d'aumento nelle buste paghe. La Corte dei Conti ha rifatto i conti, ha detto che sono 10 stamattina, questo per dire, appunto, il governo si era lamentato del fatto che tra le ipotesi che giravano alcuni avevano detto 14, io avevo scritto sul Messaggero al massimo 12, come ha detto lei, e la Corte dei Conti ci ha stamattina confermato che sarebbero poi 10. Naturalmente la vostra proposta, consegnata alle mani del prefetto per dare un'idea, per così dire, di un'interlocuzione, ma l'interlocuzione ordinaria diciamo così, dovrebbe essere con la politica dopo questi anni di crisi. Da quel punto di vista, nella trasversalità di quelli che erano con voi in piazza al venerdì, sabato a San Geremia a Venezia, che idea è quella più diffusa di fondo? La politica non ha ascoltato, il guaio è troppo grosso perché la politica possa risolverlo? Qual è la sua opinione? Guardi Oscar, è da anni che la politica non ascolta le imprese. Qua dobbiamo renderci conto che l'impresa è l'unica risorsa per fare ripartire questo Stato. Quindi fino a che lo Stato centrale non capisce che noi siamo l'unica benzina per ripartire e ci prende per gente da spremere, gente da colpire. Io le dico una cosa, sui giornali anche locali c'è stata la guerra dei numeri. Erano in 50, erano in 30, erano in 10, erano in 20. Allora, secondo me, a parte che i numeri ufficiali sono 175 presenze venerdì e 125 presenze sabato mattina, all'interno di queste presenze c'erano pensionati, c'erano operai, c'erano tutti, mancavano le istituzioni. C'erano pochi, noi avevamo provveduto a invitare tutte le segreterie regionali dei vari partiti, avevamo invitato tutte le segreterie delle varie sigle sindacali e ci siamo trovati tra virgolette in quattro gatti, ma non è questo l'importante, perché noi abbiamo considerato che per la prima volta il Veneto, e non erano solo i veneti quelli che marciavano verso la prefettura, ma c'erano altre località, c'erano imprenditori dell'Emilia, del Friuli, della Lombardia e così via, perché abbiamo deciso di tirare fuori la testa da sotto la sabbia, perché secondo me l'impresa oggi, l'imprenditore, deve finire di delegare, perché negli anni ha delegato sempre a persone sbagliate, e deve mettersi in prima persona. Io sono anche un rappresentante di categoria e le dico la verità, quando ho consegnato le 300 chiavi al prefetto di Venezia mi sono commosso, ma mi sono commosso perché dietro quelle 300 chiavi sapevo qual era l'espressione di quelle 300 chiavi, sapevo che valore avevano quelle 300 chiavi, tre posti di lavoro, famiglie, giovani e tutto quello che ne consegue. Quindi secondo me è stato vergognoso la speculazione sui numeri e non il vero risalto della manifestazione, quindi quello di aver riuscito a portare 300 imprenditori che hanno avuto il coraggio di mettere la faccia, quello che molti non hanno avuto il coraggio, perché io dico sempre una cosa, io metto la mia faccia da rappresentante di categoria e sono fiero di appartenere ad Apindustria Vicenza, che è una delle poche che ha aderito, perché tranne la Confapria eravamo solo in due come associazioni di appartenenza che hanno appoggiato questa iniziativa. Però quando mi giro devo avere i miei imprenditori dietro, se voglio avere voce, se voglio avere forza, perché se io ci metto la faccia e dietro sono da solo non andiamo da nessuna parte. Secondo me soprattutto il Veneto deve finire di delegare e deve metterci la faccia se vogliamo venire fuori e se vogliamo salvare le nostre aziende. Beozzo, le posso fare una domanda che dal mio punto di vista non è provocatoria, lo dico per chi ascolta, non vuole essere una provocazione, però bisogna capire dopo anni, di fronte ai limiti che ha l'espressione della protesta dell'impresa, cosa possono fare i lavoratori? Lo sappiamo, i lavoratori spesso tramite i sindacati ricorrono a scioperi, scioperi generali, scioperi di settore, scioperi a scacchiera, è una delle modalità fin troppo ricorrenti a disposizione del sindacato e dei lavoratori dipendenti per pesare nell'agone pubblico, nel tavolo del confronto delle diverse proposte. E voi capite che gli imprenditori hanno delle possibilità minori. Una di queste, e la mia domanda a Beozzo, è quella che io non escluderei affatto, a patto di poterla praticare con numeri importanti, perché si tratta di darsi solidarietà reciproca e di farla alla luce del sole, autodichiarandosi allo Stato in questo comportamento, perché io sono dell'idea che esistono dei limiti oltre il quale la protesta diventa un diritto naturale, soprattutto quando il fisco è così predatorio rispetto a tutti gli altri paesi. Le faccio allora questa domanda. Secondo lei, dopo questi 5 anni e 10% delle imprese venete non più attive, gli estremi per una protesta clamorosa, con numeri diversi e che avrebbe una reazione molto polemica, che non sarebbe forse compresa da molti, ma che ricorresse a dire, caro Stato, noi siamo obbligati a ricorrere a una forma di serrata fiscale, ad autodiminuire, dichiarandole i nostri versamenti rispetto a quello che ci chiedi perché è troppo. Ecco, una protesta fiscale di questo tipo, Capisco l'impatto polemico che ha di un'autoviolazione dichiarata di legge a questi fini, ma secondo lei è da escludere del tutto? Aspetti. Guardi, però, perché siccome siamo esattamente al secondo in cui scatta l'informazione stradale, il minuto di strade e poi mi dà la risposta. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati 16:46, 5 secondi. Ho chiesto a William Beozzo, il vicepresidente di Apiindustria a Vicenza, che era in piazza questo fine settimana insieme a centinaia di colleghi per protestare, ha consegnato le chiavi al prefetto e centinaia di suoi colleghi delle imprese, se è da escludere una forma clamorosa che l'impresa sola, è un sostituto d'imposta, può mettere nel suo armamentario potenziale, cioè quello di una serrata fiscale. Nel frattempo leggo anche a Beozzo alcuni commenti di nostri ascoltatori che ci scrivono i messaggi SMS al 349-238-6666. Parecchi vengono proprio dal Veneto. C'è qualcuno, per esempio, che dice: in Veneto ci sono tante imprese e tanti imprenditori che lavorano, basta piagnistei, perché altrimenti diamo l'idea che noi siamo lì a chiedere. Questo è un messaggio che ci è venuto. Un altro dice: bisognerebbe anche verificare quanto di quel 10% di imprese sparite è selezione naturale di fronte alle nuove caratteristiche dei mercati mondiali e quanto dipende da un limite della cultura dell'impresa troppo frazionata in Veneto. Poi ne leggerò degli altri, ma intanto ripartiamo. Protesta fiscale, lei che dice? Noi abbiamo consegnato al prefetto che se entro il 15 di novembre non viene accolta la nostra istanza, quindi il 40-15 più 15, il mese successivo bloccheremo i versamenti degli F24. E chiedo pubblicamente che tutti gli imprenditori devono fare questo. Io quando sento che non dobbiamo piangere, no, io non sto piangendo, io non sono qua a lamentarmi. L'impresa oggi non sta chiedendo soldi, l'impresa sta chiedendo di poter lavorare. Questo territorio è stata la locomotiva per anni del sistema Italia. Basta fare un giro all'interno delle nostre aziende, basta la mattina passare all'interno delle nostre attività produttive e guardare gli occhi dei nostri dipendenti, che non possiamo neanche considerarli dipendenti perché sono nostri collaboratori, perché dobbiamo ricordarci che il 97% del tessuto produttivo italiano sono PMI, 0,20 dipendenti. Negli altri paesi queste aziende le stanno aiutando, le stanno tutelando perché sono oro, noi ci stanno uccidendo. Quando io sento degli MSS che scrivono che ci stiamo lamentando, questa non è la lamentela, questa è voler bene al nostro paese e voler bene ai nostri giovani. Perché se io penso a un'Italia col 45% di disoccupazione, questo paese è fallito. Oggi noi stiamo vivendo in un paese che non ha futuro se non gli diamo un futuro ai giovani. Perché noi imprenditori ogni mattina ci svegliamo alle 6 di mattina e apriamo le nostre aziende, lavoriamo con i nostri collaboratori, perché la maggior parte di noi lavora con i nostri collaboratori, e pensiamo soprattutto che non abbiamo solo la nostra famiglia, ma abbiamo anche la famiglia dei nostri collaboratori. Guardi, Beozzo, io le posso giurare, non solo promettere, ma giurare, per come la penso io, se rimango a questo microfono, che ci risentiamo dopo la scadenza del 15 novembre, quando avrete iniziato ad organizzare questa protesta, perché la mia opinione, nel mio mondo ideale, anche coloro che sono soggetti a sostituto d'imposta, cioè alle ritenute obbligate, cioè i lavoratori dipendenti, dovrebbero ricorrere a cose di questo genere. È ovvio, nel loro caso la trattenuta è automatica e quindi è molto complicato, però ci sono alcuni piccoli imprenditori, ne conosco uno in Friuli, per esempio, che da un certo momento in poi ha rifiutato di fare il sostituto imposta per conto dello Stato e ha iniziato a dare il netto in busta paga ai suoi lavoratori, dicendo: pensateci voi. Ecco, la mia opinione è che se lavoro e impresa capiscono che di fronte all'eccesso di pretesa fiscale c'è qualche cosa da fare, che non si limiti a scioperare o alla serrata, che imprenditore significa perdere ulteriormente margini, quindi capite che la serrata l'imprenditore se la fa è matto, ecco, questa è una modalità di fronte a questi eccessi. Perché quando Beozzo dice in altri paesi l'impresa piccola è stata tutelata, dice la verità. La Spagna, che ha fatto manovre terribili, ne ha fatte 3 straordinarie più 3 finanziarie terrificanti, la Spagna, che pure ha tagliato più spesa di aumenti fiscali, sugli aumenti fiscali ha salvaguardato la piccola impresa, che anche lì è molto diffusa, ma meno che da noi. Noi avremmo dovuto farlo di più e invece non è avvenuto. Questo è veramente, secondo me, clamoroso. Quindi io mi impegno da questo punto di vista, associazione, non associazione industriali, di fronte a cose di questo tipo a darvi il microfono, perché mi sembra che sia una posizione non... Lei non è interessato alla politica, di quadra, lei parla perché conosce una realtà terrificante. Senta, cosa pensa dei segnali che negli ultimi mesi vengono propalati di chi dice che c'è la luce, c'è una ripresa e così via? È così nella vostra realtà oppure no? Beh, la luce è il treno che ci sta venendo addosso, ecco. Oscar, è questa la luce. Purtroppo basta fare le nostre zone industriali. Qui lei pensi che fino a 8 o 9 anni fa un capannone non si trovava. Oggi lei va in qualsiasi agenzia, lo trova dai 1000 ai 20.000 metri quadri. Ma quello che è più grave è che hanno abituato un popolo a non lavorare, perché noi dobbiamo anche cambiare il sistema di gestire la cassa integrazione, perché noi abbiamo tutte le capacità per venirne fuori di questa situazione. Aspetti, per evitare equivoci con chi ci ascolta, cosa vuol dire hanno abituato un popolo a non lavorare? Perché di fronte ai disoccupati questa rischia di sembrare un dito nell'occhio. Lei cosa intende? Allora, io intendo che non vanno più aiutate le aziende che sono al collasso. Le aziende che sono al collasso, che non hanno mercato, vanno accompagnate. Vanno accompagnate in dolcezza e vanno aiutate le imprese che sono ancora in grado di dare lavoro a questi territori. Ma questo vale per tutto il territorio italiano. Lei dice con il sistema cassa in deroga straordinaria, eccetera, noi abbiamo amplificato le coperture, ma rimaniamo nell'errore di credere di difendere i posti dove sono e come sono anche a distanza di anni, mentre invece le imprese devono essere libere di razionalizzare. Altra cosa è poi sostenere il reddito di chi ha perso il lavoro, altra cosa ancora è identificare tra quelle imprese che possono stare sui mercati. Esatto, abbiamo allungato l'agonia delle aziende destinate a morire. Purtroppo, come qualcuno ha scritto, il mercato fa una selezione e questa selezione ogni giorno viene fatta, quindi noi dobbiamo riuscire a tutelare le nostre produzioni, e dopo c'è da fare anche un discorso a livello europeo. L'Europa deve essere Europa da A alla Z, quindi io non posso finanziarmi in Italia al 7% e i miei colleghi tedeschi si finanziano al 2%. Quindi se l'Europa è una, deve avere una legge unica e un costo del denaro unico, perché altrimenti non abbiamo la forza noi per uscire. E dopo un'altra cosa, bisogna cominciare a tagliare sul pubblico, perché fino ad oggi non è stato tagliato niente. Caro Beozzo, io ho gridato per anni stato ladro, mi dicevano che ero matto, e invece la spesa pubblica è al 50,6%, 6 punti di più di quella tedesca. E vabbè, quanto ha ragione Beozzo, però sa, su questo la politica. Le aziende che dal 2008 oggi sono ancora in piedi e stanno ancora con sofferenza dando posti di lavoro, perché dobbiamo ricordarsi che l'imprenditore ha un'importante fase della sua vita che si chiama responsabilità sociale, perché ha una responsabilità dove lui fa un'azienda di dare e creare dei posti di lavoro. Dal 2000 ad oggi le aziende che oggi sono ancora in piedi sono quelle che si sono ristrutturate, sono quelle che hanno avuto il coraggio di tagliare, di cambiare e di rinnovarsi, perché noi oggi stiamo pagando la troppa tecnologia. Quando io sento la politica che dice che le imprese anche del nord-est non sono competitive perché non sono tecnologiche, questi non sono mai entrati all'interno delle nostre aziende. Guardi, un messaggio è appena arrivato e voglio leggerlo così come è arrivato a chi ci ascolta. Salve, da un'impresa di servizi di Vicenza, pubblica amministrazione 60% nostro fatturato, 80% costo del personale, da liquidare il resta il 20%, pagamento a 120-150 giorni oramai, banche rifiutano le fatture. Abbiamo speso tutto, circa 15 milioni, e ci sono 1200 famiglie in ballo, non ho più la forza di lottare, il 31 dicembre chiudiamo. Ecco, questi sono i messaggi che poi testimoniano, ce ne sono tanti altri anche, devo dirvi la verità, tanti che dicono non solo imprenditori, date il microfono anche ai lavoratori dipendenti. Io vi invito tutti a scrivere all'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, lavoratori dipendenti, pensionati e così via, lo farò senz'altro, datemi i casi e le disponibilità per intervenire in trasmissione, avete perfettamente ragione. Questo è un dramma comune, non è un dramma dell'impresa distinta dai lavoratori o dai pensionati. Gli italiani sono a un livello di reddito pro capite che è di meno 11 punti percentuali rispetto al 2007. Non è mai capitato nell'intera storia da che esiste l'Italia unita qualche cosa di simile. Senta, se dovessi fare un'autocritica, Beozzo, su le esperienze associative d'impresa, tema delicato, che lei ha un incarico, questa era delle Confindustria, io un po' diciamo, le faccio la domanda rischiando, ma mi pare giusto, le associazioni che cosa hanno da rimproverarsi? Le associazioni devono cambiare, noi di App Industria abbiamo avuto il coraggio di uscire da una confederazione nazionale che si chiamava Confapi, perché non ci dava la possibilità di essere liberi. Abbiamo costituito la Confimi Impresa, che è una confederazione nazionale libera. Io mi sento libero all'interno della mia confederazione. Noi non occupiamo le cosiddette, come si dice in Veneto, careghe dei consigli di amministrazione delle banche, perché dobbiamo essere liberi di dare la nostra, il nostro pensiero. Le associazioni di categoria, come sono costituite oggi, sono dei carrozzoni che vanno rivisti dai vari sistemi, dalle camere di commercio e così via. Dobbiamo riformare il sistema. Credo che Beozzi, io spero che l'ascolti, non è diverso associazione, Confindustria ha avviato una riforma interna, speriamo che tagli davvero. E quanto poi l'ascoltatore che chiede, ma a me le banche non danno niente, cioè, conosco un grande imprenditore che ha avuto nuove esposizioni per 1 miliardo rotte senza garanzie, come mai? Beh, il problema sta proprio in queste relazioni a cui faceva riferimento anche Beozzi, è ovvio che c'è un capitalismo relazionale di chi sta seduto nei consigli di amministrazione delle banche e ha condizioni di credito diverse. Rapidissimo ancora Antonio da Venezia, c'è una telefonata, prego Antonio, dica. Oscar. Sì. Ciao, buonasera, sono Antonio da Venezia. Rapido. Io ho un'azienda di trasporti. Ce la fai? Ce la faccio. Io ce la faccio. Ma? Il problema è proprio il credito, Oscar. Le banche. Il problema è proprio il credito, perché c'è chi non ha lavoro, ma c'è chi ha lavoro con contratti. Non ce la fa ad avere gli sconti in banca, dici tu come fa. Antonio, ci risentiamo perché purtroppo noi abbiamo esaurito il tempo, colpa mia che ho visto tardi la telefonata, io ringrazio ancora William Beozzo, ci risentiamo quando parte la protesta fiscale e scriveteci anche dipendenti, diamo voce a chi non ne può più. Appuntamento a domani.